Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. E allora, di cosa ci occuperemo oggi quanto a cronaca e attualità economico-finanziaria? Come sempre parleremo di mercati che si avviano a chiudere l'anno. Londra oggi è chiusa, ma parlo di Parigi, di Francoforte e di Milano, con rialzi tra lo 0,6 e lo 0,7%. L'America, molto più modesto rialzo, più 0,1%. Euro a quota 1,43. In evidenza di nuovo Geox più 3%, Exor più 1,7%, poi c'è una pattuglia di titoli che guadagna tra l'1,5% e l'1%, e mi riferisco a Fondiaria, Italcementi, Tenaris, Generali, Intesa e Ansaldo. C'è anche chi cede, ma nulla di grave: Mondadori 0,5 punto percentuale, Enel pure e Snam Rete Gas lo 0,3%. Inizieremo però questa puntata con un tema più di analisi, se vogliamo, che non di cronaca. Con il 31 dicembre infatti terminerà ufficialmente un decennio, poi c'è chi dice no, terminerà il 31 dicembre 2010, sono questioni di rana caprina, insomma un decennio iniziato col 31 dicembre del 99 con il timore del millennium bug, del baco del millennio, si chiude. Avete letto, immagino, su molti giornali che insomma il giudizio degli storici, non certo dell'economia, ma degli storici, degli osservatori, è di un decennio dominato dall'incertezza, dalla paura, dalle catastrofi, dagli tsunami, dall'11 settembre, dalla aviaria, dalla suina. Insomma, un decennio in cui la paura è tornata in padronissima dell'opinione pubblica e che si sta chiudendo, qui sì, con la notizia di economia e finanza, con la peggiore crisi degli ultimi 40-50 anni. Noi lo analizzeremo da un profilo chiaramente economico e finanziario. Non sempre in questi 10 anni, lo premetto, diciamo, la direttrice dell'economia internazionale ha seguito ha viaggiato parallela a quella della finanza e dei mercati. In alcuni casi, infatti, hanno goduto di moti completamente diversi. Nell'ultimo anno, invece, assistiamo purtroppo a di nuovo un intersecarsi di quello che è stato il crollo dei mercati finanziari e difficoltà della finanza con le conseguenze che ha avuto sull'economia. Per alcuni anni, per esempio dal 2002 al 2007, si sono mossi in maniera diversa. Sarà un'occasione quindi per fare un bilancio di 10 anni, dico subito, iniziati con il dominio americano, internet nel 99, la bolla di internet, ma insomma l'America sembrava saldamente al comando, si chiudono con la notizia che avete letto in questi giorni, ossia ieri il sorpasso cinese quanto a produzione di auto sull'America. Un sorpasso era già avvenuto, la Toyota è il primo produttore al mondo, e quindi insomma, e sicuramente si chiude con un'America più debole, più bisognosa di soldi dei risparmiatori cinesi per finanziare il suo debito, di ripresa cinese per tornare a crescere. Un'America abbastanza diversa da come era nata, scusatemi, da come aveva iniziato il decennio, e parleremo anche dell'Europa. Poi, come sempre, i mercati finanziari, poi invece le notizie di cronaca che oggi riguardano, da un lato, l'uomo dell'anno per il Financial Times, il vampiro, quello che viene visto da molti come l'emblema della classe, della casta di banchieri d'affari di Wall Street, Blankfein, milioni e milioni di dollari di bonus solo per quello appunto che viene chiamato il vampiro di Wall Street. In realtà lui ha praticamente 54 milioni di dollari di stipendio e 615 milioni di dollari in azioni, e ha distribuito Goldman Sachs 23 miliardi di bonus per i 30.000 dipendenti. Anche qui torna la polemica su quelli che Barack Obama privatamente, non in pubblico, chiama i fat cats, i gatti grassi della finanza di Wall Street, da alcuni criticato, da altri invece considerato l'uomo che ha salvato Goldman Sachs. L'unica banca, devo dire, che non è stata travolta tra le banche d'affari, anche se qualche perdita l'ha avuta pure lei, dalla crisi di un anno fa. E poi chiuderemo su dati di cronaca relativi a ieri e oggi. Ieri la Banca d'Italia ha detto: attenzione, la produzione industriale italiana è crollata a tal livello che siamo tornati indietro di 100 trimestri, E Banca d'Italia ha detto: attenzione, la nostra situazione è più grave, più pesante quanto produzione industriale rispetto a Francia e Germania, perché loro sono tornate indietro di 12 trimestri, ma noi addirittura ne abbiamo fatti 100 indietro. Oggi, tra l'altro, è uscito anche, per questo ne parleremo, il dato del Centro Studi Confindustria, con un miglioramento molto molto modesto, purtroppo, della produzione industriale a dicembre, più 0,2%, e tra l'altro meno 21% sotto l'aprile 2008, un po' in recupero rispetto a marzo, ma insomma ancora modesto l'andamento della produzione industriale. E questo sarà l'ultimo tema di cui ci occupiamo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. A New York il petrolio tiene stabilmente quota a $78 al barile, 78,60. Purtroppo sono già aumentati i ritocchi, anche qui, come prima del ponte dell'8 dicembre, adesso che gli italiani si trasferiscono in vacanza. Sono tutte coincidenze, ci mancherebbe. Però sia ERG che Kuwait hanno aumentato la benzina e il gasolio a 1,307 per la benzina e 1,153 per il gasolio. Sempre sul fronte internazionale, la Cina, il Giappone, Hong Kong e la Corea del Sud, praticamente le tigri asiatiche, come si chiamavano una volta, oltre a tutti i paesi del sud-est asiatico riuniti nell'ASEAN, hanno firmato un accordo per creare un fondo contro i rischi futuri e le sfide dell'economia globale da $120 miliardi, una riserva, un plafond che dovrà servire in caso di sorprese nel 2010. Evidentemente questi paesi non ritengono che la situazione sia completamente stabilizzata e tranquilla. Tornano ad aprire i portafogli i consumatori americani, o almeno un po' più dell'anno passato, l'anno del grande gelo, quel 2008. Nel 2009, infatti, in base ai dati diffusi da Mastercard, da novembre al 24 dicembre le vendite al dettaglio, escluse quelle che riguardano automobili e chiaramente benzina, sono aumentate del 3,6%, grazie anche a un giorno in più di apertura dei negozi. A parità di giorni sono salite dell'1%, poca cosa, però un minimo di risalita c'è. E anche in Gran Bretagna, comunque, i negozi stanno andando, le vendite natalizie stanno andando bene, ma per i saldi di fine anno. Secondo gli ultimi dati, infatti, il numero di persone che ha approfittato dei saldi post Natale è aumentato del 18,5%, di fronte ai grandi magazzini di Londra, penso a Harrods, Harvey Nichols e altri. Ci sono persone in coda dalle 4 di mattina e tra l'altro dalle 4 di mattina del 26 dicembre si sono messe in coda le persone. Gli incassi hanno raggiunto i 3 milioni di sterline complessivi al minuto. E ancora, in Italia i saldi partiranno il 2 gennaio a Napoli, Roma, Bologna, Milano, Venezia e Palermo, e poi Trieste, Torino e Genova fino al 10 del mese. Ma per i consumatori, per l'associazione dei consumatori, solo il 50% delle famiglie farà acquisti nel periodo dei saldi invernali. Non si verificherà, secondo Codacons, la grande corsa ai saldi, riduzione degli acquisti fino al 20% con una spesa media che non supererà i €130 a testa. Io direi staremo a vedere e poi ne parleremo. Nel frattempo, questo anche l'avete detto sui giornali, sempre i consumatori, le situazioni dei consumatori stimano una stangata nel 2010 per le famiglie italiane, €600 in meno per colpa dei rincari, di balzelli, di nuove spese. Praticamente le misure saranno aumenti del gas, dei carburanti, dei mutui, dei biglietti familiari, e anche dalla finanziaria, secondo ADUSB e Federconsumatori, arriveranno meno risorse, spese in più per le famiglie, pari a €120 a famiglia. Bene, o meglio, queste le notizie di oggi. E adesso, tra l'altro, un ultimo dato invece lo diffonde, l'ha diffuso poco fa l'ANSA, per quello che riguarda la Corte dei Conti ha espresso nuovi dubbi sul fatto che l'assenza di ICI, lì ci è stata tolta, infatti si possa recuperare con la lotta all'evasione, perché dice che insomma restano molti dubbi sul gettito che la lotta all'evasione porterà. Dall'altro lato invece, sempre sui conti pubblici, uno studio diffuso oggi da Unicredit segnala come l'Italia dovrà raccogliere nel 2010 256 miliardi per rifinanziare il suo debito pubblico, una cifra stabile rispetto al 2009, sempre 257 miliardi. Noi però siamo i primi nella classifica poco invidiabile di chi deve chiedere o rinnovare i propri debiti. Segue la Germania con, anzi la Francia, scusate, con 250 miliardi, la Germania con 223 e la Spagna con 140 miliardi. Adesso, diciamo, torniamo indietro di 10 anni, quando nasceva Radio 24. E lo facciamo non per parlare di noi, ci mancherebbe, ma perché insomma con il 31 dicembre si chiude, ripeto, un decennio nato in cui siamo entrati in un certo modo, sicuramente tutti più giovani, ma anche con alcune attese, e si chiude, diciamo, in un altro modo, in un altro mondo, e appunto anche noi un po' tutti più vecchi. Andiamo con ordine. Immaginiamo di essere intorno al 30, 29, 28 dicembre del 1999, grandi tensioni per il Millennium Bug, per, insomma, così, i timori che i computer saltassero, impazzissero per la doppia cifra. Nulla di tutto questo è successo. Già lì però c'era un po' il segnale di quello che storici e sociologi chiamano già il decennio della paura, del ritorno alle paure, del terrorismo, dei fenomeni, dei cataclismi naturali, delle paure della pandemia. Ma noi che ci occupiamo di economia e finanza ricordiamo l'inizio di questo decennio come un decennio in cui si confermava l'egemonia economico-finanziaria americana, Bill Clinton era ancora presidente, esplodeva internet e iniziava una bolla più piccola di quella attuale, ma insomma una bolla che ha bruciato più di un risparmiatore, la bolla della New Economy. Facile dire, è iniziato con una bolla e si è chiuso con una bolla il decennio, facile altrettanto dire, per quello che riguarda l'economia, è iniziato con il dominio americano saldo sull'economia e la finanza, si è chiuso con un'America in cui Wall Street sta raccogliendo i cocci, anche se sono cocci, insomma, che alcuni raccolgono a peso d'oro, con la Cina che è l'unica speranza di una ripresa economica, con i cinesi che hanno un terzo del debito americano nei loro portafogli, e con un dollaro debolissimo a 1,43, un'America che insomma deve rivedere un intero modello produttivo forse. E si chiude con la notizia di ieri, con la Cina che ha superato l'America quanto a immatricolazione di auto, chi l'avrebbe mai detto 10 anni fa, e con la Toyota saldamente al primo posto, e gli americani scesi in una crisi che forse adesso hanno arrestato, con il rischio fallimento per General Motors, la cessione di Chrysler alla Fiat, Ford che è riuscita a salvarsi. Professor Giuseppe Berta, docente di storia dell'economia all'Università Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Buonasera anche al professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera. Io vorrei con voi due dividere i ruoli. Con lei, professor Berta, parlare del decennio sotto profilo dell'economia, dell'economia internazionale, delle politiche industriali, e con lei, professor De Aglio, invece sotto il profilo dei mercati, della finanza. Andiamo indietro, che come si dice in certi film, in certi romanzi, la conclusione è nota, visto che l'abbiamo vissuta, ma torniamo indietro con la memoria 10 anni fa. Allora, professor De Aglio, 10 anni fa si assiste a quella che poi è stata chiamata una bolla, ma insomma a un'esplosione di internet, titoli che vengono quotati, qualcuno ricorderà il nuovo mercato italiano e comunque i vari nuovi mercati, Neuer Market in Germania, nuovi mercati paralleli per accogliere queste start-up, ecco un altro termine che ci riporta indietro, questi debutti di borsa, di piccole società, in cui si dice, attenzione, non serve a nulla valutare le società con la old economy, qui c'è una new economy. Devo dire che un decennio nato con la new economy si chiude con, purtroppo, la peggiore delle old crisis, cioè quelle da bolla finanziaria. Comunque, professor De Aglio, quali erano le speranze 10 anni fa? Le speranze erano che la new economy avrebbe prodotto new profits, cioè sarebbe stata in grado di assicurare a chi investiva in queste società dei profitti prima mai visti. E la bolla raggiunse questo grado di frenesia per cui, come mi disse una volta un agente finanziario, bastava mettere dietro il nome di una società .com perché quella società salisse di prezzo di un 10-15%. I mercati hanno dimostrato in questo caso una singolare miopia, non hanno guardato dentro e non si aspettavano sicuramente che la grandissima parte dei servizi di internet sarebbe stata gratuita e quindi non avrebbe provocato quegli utili da favola che ci si aspettava allora. E noi abbiamo ancora oggi un buon numero di società che sono rimaste in piedi, si sono ingrandite, che profitti ne fanno pochissimi o ne fa nessuno, mentre altre si mantengono nella buona norma, ma non hanno dato luogo a questa eccezionalità. Quindi un mercato privo degli strumenti giusti per discernere. Allora, restiamo sul 99-2000, professor Daglio, perché è vero quello che lei dice, poi ci fu un'assoluta esaltazione, però fu anche il momento, visto che in quegli anni, anzi nell'ottobre del 99, nasceva Radio 24, fu anche il momento in cui la finanziarizzazione dell'economia non toccò solo le imprese quotate, ma se vogliamo anche i portafogli delle famiglie. Cioè, in quegli anni, 10 anni fa, l'italiano, complice anche i bassi rendimenti dei BOT e dei BTP, iniziò a appassionarsi, ahimè in alcuni casi, alla borsa. I promotori finanziari diventarono una professione tra le più richieste, i fondi comuni di investimento crescevano a dismisura, insomma c'era la finanziarizzazione del risparmio delle famiglie degli italiani, o no? Sì, questo è un discorso, noi parliamo sempre dei mercati come qualcosa che sta all'esterno, è un discorso che riguarda tutti, cioè tutti sono stati sottoposti a diciamo tentativi di convinzione che facevano perno su caratteristiche taumaturgiche di nuovi titoli di borsa in grado di garantire sempre i profitti previsti. Questa era stata la grande trovata, se vogliamo, la grande scoperta di alcuni premi Nobel, subito messa in pratica, che si basava però su una situazione in cui le conoscenze dovevano essere molto vaste e i mercati non le avevano. Per cui ci siamo trovati, tra l'altro titoli molto complicati, ci siamo trovati con dei promotori finanziari che vendevano titoli che non sapevano, non comprendevano bene nel loro meccanismo, e risparmiatori che compravano gli stessi titoli comprendendone ancora meno di chi glieli vendeva. E questi, diciamo, sono the fabulous anni a doppio zero, come li chiamano gli americani, insomma dal 2000 al 2009. Professor Berta, poi torneremo, diciamo, all'inizio del decennio. Io dicevo, introducendo il tema, vedo anche molti messaggi al 349-238-6666, un po' di pazienza. Dicevo, è iniziato però il decennio con un dominio americano che nessuno metteva in discussione. Anzi, internet era nata nella Silicon Valley, in quei nerds che si chiamano poi Bill Gates e tutti quei grandi creatori di internet, e Steve Jobs e quant'altro, per cui l'America sembrava saldamente all'avanguardia nella tecnologia, lo è ancora per carità, ma insomma nel guidare le rotte del commercio e quindi lo sviluppo economico per i 10 anni futuri. Può dare anche che una rivista importante come Foreign Affairs discuteva allora se il 21esimo secolo sarebbe stato il secondo secolo americano, no? Noi abbiamo vissuto tutto il Novecento all'insegna della crescente egemonia economica e non solo economica degli Stati Uniti d'America, e allora non si vedeva all'orizzonte chi potesse sottrarre lo scettro del primato agli Stati Uniti. Non dimentichiamo che l'Asia, su cui si sono già puntate numerose preoccupazioni anche da parte degli Stati Uniti negli anni Ottanta, sembrava in quel momento vivere una fase negativa, un po' perché c'era stata la crisi finanziaria dell'Asia, dei dragoni asiatici nel 1997, è un po' perché il Giappone era già ingabbiato in quella lunga epoca di stagnazione. Allora, per tutti questi aspetti, il 2000 è un anno che si apre con ancora un forte senso di fiducia negli Stati Uniti, un senso di fiducia che verrà rapidamente scosso, perché appunto proprio i primi mesi del nuovo anno vedranno inclinarsi questa sicurezza nella crescita, ma allora gli Stati Uniti sembravano ancora saldamente al comando, cioè non c'era il senso che l'Asia stesse per iniziare una dinamica di crescita così forte come quella che la poi caratterizzata in seguito, e soprattutto sembravano essere molto lontani i discorsi sul declino americano, che invece poi si sono riaffacciati con intensità e si sono in particolare acutizzati dal 2008 a oggi. Allora, restiamo in quegli anni. Vedo che molti ascoltatori giustamente citano anche l'ingresso della lira nell'euro, cioè il debutto dell'euro, che devo dire ha comportato sicuramente per il sistema produttivo italiano l'incapacità poi di fare le famose svalutazioni competitive, cioè la lira perdeva valore, così si esportava un po' meglio, ha protetto però i risparmi degli italiani da quello che è successo poi negli ultimi anni, e grazie all'euro ha creato dei bei problemi sul potere d'acquisto ai lavoratori dipendenti, perché lì l'adeguamento 1000 lire a 1 euro non è stato fatto sui listini, non essendoci listini, ma trattenuto alla fonte, e c'è anche chi ha sostenuto che ha distrutto in parte un ceto medio di carattere impiegatizio, da lavoro dipendente. Però io vorrei restare sulle grandi variabili e ricordare, professor De Aglio, che prima ancora che si arrivi all'11 settembre del 2001, o meglio, in quell'anno lì, anno nefasto, inizia anche una stagione che forse qualcosa doveva insegnarci di grandi crack finanziari. Io cito l'Argentina come quello più noto a livello mondiale. A casa nostra Cirio e Parmalat, ma anche Enron. Cioè, non dimentichiamoci che c'è un mondo finanziario che ormai vale centinaia di volte il PIL dell'economia reale, ma che inizia, a mio avviso, a dimostrare che qualcosa nei meccanismi di controllo, sia che ti chiami Cirio o Parmalat, sia che ti chiami Enron come un gigante, o che tu sia uno stato sovrano, qualcosa non sta funzionando. Professor De Aglio. Direi proprio che questo è l'anno maledetto delle tre crisi, in cui da un lato abbiamo il terrorismo, 11 settembre, dall'altra parte abbiamo la crisi argentina, che prende praticamente tutta la coda dell'anno, e il caso Enron, che colpisce anch'esso tra ottobre e novembre. È un attacco al modello americano da moltissimi punti di vista. Secondo me il più importante è il caso Enron, perché è un attacco morale. Sì. Cioè, in una società come quella, in cui il capitalista ha comunque dei doveri, il vedere la menzogna retta al sistema, cioè il presidente di Enron che invita i suoi dipendenti a mettere i soldi in un fondo che lui sa valere zero. Ecco, queste sono cose che scuotono moltissimo l'America. Poi abbiamo la Kenny Boy, come lo chiamava la famiglia Bush, perché era molto amico della famiglia Bush, Kenny assolutamente Boy. Assolutamente sì, perché ragazzo era Kenny. Appunto gli intrecci tra business e politica che stavano dietro a queste cose, che sono poi continuati negli anni di Bush. In sostanza quello avrebbe dovuto essere il campanello d'allarme. Se non lo è stato, io penso che tutti quelli che scrivono sui giornali, che fanno i giornali, che fanno le trasmissioni radio, eccetera, devono interrogarsi in maniera molto serena per capire se hanno fatto fino in fondo quello che dovevano dal punto di vista dell'informazione. Allora, nessuno sta demonizzando i promotori finanziari, abbiamo solo ricordato che rispetto ai numeri di adesso, nel 2000, nel 99, era una delle professioni più richieste, migliaia di persone facevano i promotori finanziari e nascevano decine di fondi e di SGR, di SIM, insomma tutto un periodo che abbiamo raccontato anche con Salvadanaio, non solo con Focus Economia. In quegli anni Enron sicuramente salta tutto, addirittura si è scoperto dopo che i famosi blackout elettrici della California venivano organizzati proprio da Enron per premere sul governatore dell'allora della California, perché arrivasse a miti consigli, diciamo, con il colosso. Salta per era tutto, salta per era il mondo, però professor Berta impara molto poco da questo, e mi spiego. A mio avviso il 2001 cioè l'11 settembre è stato più una parentesi, un grande shock, ci mancherebbe, ma dal punto di vista dell'economia e della finanza, alla fin fine nel 2002 tutti i valori sono già recuperati, professore. Sì, è stato un anno quello, il 2011, traumatico, 2001. Ma appunto vissuto non sul piano della politica internazionale evidente, ma sul piano delle dinamiche economiche, come un anno di opacità, nel senso che si attende un impossibile ritorno alla normalità. E vorrei aggiungere a ciò che lei diceva poco fa circa il predominio della dimensione finanziaria nei processi economici, sono anni anche questi, i primi anni del 2000, di oscuramento della dimensione industriale del mondo. Sono gli anni in cui c'è un grande spostamento che diviene visibile alla metà del decennio dell'industria dai paesi di antica industrializzazione, dei paesi dell'Occidente, ai paesi emergenti, in particolare alla Cina. Si prende atto per esempio che l'industria americana rappresenta ormai il 10%, l'11% alla metà del decennio dell'occupazione totale degli Stati Uniti. E sono gli anni anche in cui proprio il sistema americano entra in crisi perché le sue grandi imprese storiche sono in caduta, a cominciare dalla General Motors. Dal 2003 al 2004 si ha chiaramente la percezione che le Big Three, le tre grandi case automobilistiche di Detroit siano entrate in una spirale negativa da cui non riescono più ad uscire, ed è quello che si verificherà alla fine del decennio, no? Del 2008, come lei diceva, col sorpasso della Toyota, che diventa il primo produttore mondiale di automobili. Sì. Dunque, è la fine del secolo americano anche dal punto di vista della produzione di massa. Non dimentichiamo che nel 1908-1909 proprio Henry Ford aveva lanciato la più celebre automobile mai costruita, la Ford Model T, la macchina che ciascuno può avere di qualsiasi colore, a parte che sia nero. Dicevo, stiamo raccontando questo decennio, o perlomeno ci stiamo provando, in maniera molto molto a volo d'uccello. Un decennio, siamo arrivati diciamo al 2002-2003, e quindi quando tutto sommato le due torri che crollano scioccano il mondo dal punto di vista politico e culturale, ma dal punto di vista economico-finanziario nel 2002 già si riparte con diciamo, la crescita economica solo brevemente interrotta dall'11 settembre. E abbiamo scelto proprio gli Oasis, la band che secondo molti ha caratterizzato questi 10 anni per arrivare al 2002-2003. Dunque, volete sapere, lo scrivete, come si sono mosse le borse in questo periodo? Beh, interessante notare che se prendiamo i 10 anni, tutte le borse sono negative, cioè chi avesse investito 100 euro 10 anni fa adesso ne avrebbe praticamente 82, scusatemi, meno 18% su Milano, meno 14%, quindi 86 su Londra, e poi ne avrebbe gli stessi soldi se avesse investito in America, perché l'America ha fatto un meno 1,7%, avrebbe perso invece tanto, e cioè ne sarebbero rimaste 58 di euro se avesse investito sul mitico Nasdaq, il listino delle nuove tecnologie. Più interessante invece il confronto se guardiamo anno su anno. Il 2002 è ancora un anno pesante per tutte le borse, meno 23% Milano, meno 17% il Dow Jones, meno 32% il Nasdaq. È dal 2003 che invece tutti i mercati tornano a crescere, recuperano terreno. Più 14% Milano nel 2003, l'America più 25%, il Nasdaq più 50%, il 2004 più 18% Milano, 2005 più 15% Milano, 2006 più 16% sempre a Piazza Affari. Professor De Aglio, sono anni, 2003, 2004, 2005, 2006, in cui per carità alcune cose non funzionano, l'America è un continente debolissimo, insomma si cresce, le economie crescono, la borsa cresce, i titoli finanziari crescono. Beh, diciamo pure che sono stati anni giocati in maniera molto spericolata dalla Federal Reserve di Greenspan. Cioè Greenspan si rende conto alla fine del 2001, inizio del 2002, che questa crisi della new economy è un po' diversa da quelle precedenti e quindi bisogna curarla inondando l'economia di liquidità, e comincia il 3 di gennaio del 2002 senza consultare nessuno, quindi avvalendosi di poteri straordinari, ad abbassare di un punto il tasso di interesse, e va avanti ad abbassare i tassi di interesse fino al 2004, quando li porta, se non sbaglio, a 0,5 o 0,7. Praticamente tutti i mesi c'era una piccola riduzione. Questo ridà fiato all'economia, ma non tanto per fare investimenti industriali, perché quelli erano già stati fatti e tutto sommato la new economy non girava più di tanto, ma soprattutto serve a lanciare l'ultima delle bolle di questo periodo, che è la bolla dell'edilizia. Cioè le famiglie che vedono questo denaro a tassi così bassi si mettono a cambiare casa, a prenderne una che abbia una stanza in più, quelle che non potevano permettersi di comprarne una adesso possono perché i tassi sono bassi, e in sostanza c'è questo grande entusiasmo americano che poi travalica in tutta l'economia mondiale per la costruzione, la crescita, senza guardare assolutamente a nulla di quello che stava succedendo, e soprattutto nessuno, ma proprio nessuno, fino al 2005-2006 si accorge che dietro ai dati ufficiali era cresciuta quella che mi pare il governatore Draghi ha poi definito un'economia parallela, cioè un'economia di cui nessuno sapeva nulla, fatta di titoli che non erano segnati da nessuna parte. Cioè i famosi prodotti tossici, no? I famosi prodotti che poi possono diventare tossici magari, e che ancora rappresentano 10 volte il PIL mondiale, quelli in giro. Questa è la massa che ci sta ancora sulla testa, per cui prima di pensare che tutto è passato, riflettiamo. Vabbè, adesso arriviamo al 2008. Professor Berta, il professor D'Aglio ha ricordato che cosa è successo nell'economia e nella finanza, cioè la Federal Reserve, la banca centrale americana, inizia a abbassare i tassi, giustificando ancora queste mosse con il periodo post-terrorismo, post-11 settembre. In realtà abbiamo scoperto che non ce n'era così gran bisogno, l'economia girava comunque, la banca centrale europea fa più o meno lo stesso, e cioè li porta dal 3,75% al 3% del giugno 2003, insomma si crea una grande liquidità e si genera la bolla del mattone, ben più pericolosa della bolla di internet, perché include un bene primario come la casa. Questa però è la finanza, e nascono i prodotti derivati, vengono utilizzati in maniera ancora più massiccia. Sul fronte dell'economia invece possiamo dire che in quegli anni la vera notizia non sono le torri gemelle, ma è l'ingresso della Cina nella WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che cambia radicalmente gli attori e i pesi, e quindi da lì poi l'ondata di prodotti cinesi che arrivano in Europa, cambiando anche il sistema produttivo italiano? Non c'è dubbio, perché in quegli anni si scopre che la Cina è diventata quello che era nell'Ottocento l'Inghilterra vittoriana, l'officina del mondo, no? Appare a tutto il mondo come una gigantesca fabbrica che riesce a invadere il mondo con i suoi prodotti a basso costo, generando una catena di paure di cui si è parlato lungamente. Direi che per i produttori anni come il 2005, i produttori occidentali come il 2005-2006 sono, e fino al 2008 sono gli anni della scoperta che esiste un grande competitore mondiale che si sta formando ovunque e al quale non si sa bene come far fronte. No, sono state numerosissime in questi anni le richieste di nuove difese protezionistiche che sono impossibili, e la richiesta anche di una difesa più fondata in questo caso, con la valorizzazione dei marchi, con gli impedimenti della contraffazione e così via, ma tutte misure che non cambiano il fatto che lo spostamento del baricentro dell'economia produttiva, dell'economia industriale nel mondo è ormai avvenuto a favore dei paesi emergenti. Abbiamo detto la Cina certamente, ma anche l'India, ma anche il Brasile, anche il Messico, insomma paesi che erano stati marginali fino a pochi anni fa e che adesso divengono protagonisti della crescita mondiale e con i quali bisognerà fare i conti nei prossimi anni. A questo punto bisogna prendere atto che sono grandi paesi industriali che hanno regole di comportamento, modi di fare impresa, modi di intendere, di praticare l'industria che sono molto differenti da quelli radicati nell'Occidente e con cui l'Occidente anche oggi ha grande difficoltà a rapportarsi. E infatti io ricordo che conducendo questo programma appunto negli ultimi 10 anni, nel 2003, 2004, 2005, i temi erano come difendere il tessile italiano dall'invasione di prodotti sotto costo cinesi, addirittura in dumping molte volte, come difendere il calzaturiero, insomma che cosa succederà della nostra industria, del nostro sistema produttivo. Nessuno immaginava che quella che appunto il governatore Draghi ha chiamato l'economia parallela stesse montando come un blob, come una massa gelatinosa incontrollabile sotto le fondamenta della casa e stesse per portare poi, ahimè, alla crisi che da un punto di vista economico più che finanziario è la peggiore degli ultimi 50 anni, stando ai numeri che vediamo. Parliamo quindi di quello che succede dopo questi 4-5 anni di economia che cresce sull'onda anche della manifattura cinese e famiglie, finanza che possono comprarsi qualunque bene, non solo la casa, anche i televisori, gli stereo, tutto col credito al consumo, si arriva all'estate del 2007. Professor De Aglio, noi continuiamo con gli Oasis, alcuni ci contestano che siano la band del decennio, abbiamo cercato una band, ragazzi, per ricordare questo decennio che si sta chiudendo, siamo d'accordo che sicuramente capiamo forse meglio l'economia della musica, ma insomma così proviamo a fare. Professor De Aglio, 2007 scoppia tutto, ormai si arriva alla cronaca recente, si capisce che la finanza è assolutamente intersecata con l'economia, che questi geni hanno costruito un castello di economia e finanza parallela. La domanda che ho per lei e anche per Berta è la seguente: alla luce di quello che poi è successo, questo decennio, e utilizzando una categoria interpretativa di Osborne che ha definito il Novecento il secolo breve, può essere, secondo lei, è stato un decennio breve, cioè è durato poco ed è successo di tutto come il XX secolo per Osborne, o è stato un decennio lungo? Io credo che sia senz'altro un decennio lungo, cioè comunque vadano le cose, noi tutti ci auguriamo che questa ripresina di cui si vede qualche traccia non sia effimera, ma l'ombra di questi due anni e mezzo, che ha segnato profondamente non solo il sistema produttivo ma anche i mercati di tutto il mondo, continuerà a farlo. Cioè credo che la cosa peggiore è quella, mi scusi, di pensare che si possa tornare al tutto come prima. Non si tornerà più al tutto come prima, bisogna costruire qualche cosa di nuovo in cui tutte queste grandi storture vengono messe a posto e in cui bisogna dire sicuramente l'Europa e forse anche gli Stati Uniti avranno un ruolo sensibilmente minore, perché devono lasciare spazio a questi altri paesi che ci piacciono o no. Quindi per noi è un cambiamento di ottica di lungo periodo abbastanza buono, abbastanza profondo. Quindi secondo lei... A parlare sulle colonne dell'Economist di frugalità, una nuova normalità in cui certi consumi dovranno forse essere rivisti più in basso. C'è una grossa frattura tra i consumi delle persone sopra i 40 anni e quelli sotto i 40 anni. Che non si possono più permettere tante cose. Insomma, siamo in un momento complesso in cui è difficile indicare qualunque cosa, credo che però sia giusto sottolineare l'estremo intrico di tutti questi problemi. Adesso torniamo a parlare del presente e quindi a parlare di borsa. Più 0,80% Milano, Londra chiusa, l'America guadagna poco, 0,1 poco mossa, Francoforte più 0,70, Parigi più 0,90%, questa mattina deboli le borse asiatiche, tranne Tokyo che ha chiuso con un rialzo dell'1,3%. I migliori titoli, Geox più 3,3%, Fondiaria più 2%, Exor più 2%, Unipol più 1,90%, Tenaris più 1,80%, Intesa più 1,60%, come Italcementi, Buzzi Unicem più 1,40%, come Generali e Ansald STS. L'1,25% l'ha guadagnato la Popolare di Milano e anche Telecom Italia, l'1% Ubibanca, ma anche Mediobanca, Mediolanum e le CIRE, Unicredito, ma anche A2A. Chi ha perso? Pochissimi titoli, poca roba. Finmeccanica meno 0,2% come Enel e Mondadori. Snam meno 0,1%, i migliori e peggiori in assoluto. FMR Arte più 8,4%, Cairo Communication più 5,5%, poco altro. I peggiori, dunque, Class meno 3,70%, De Longhi meno 2,60%, in pregilio sul risparmio non convertibili meno 5,7%. Radio Corriere sulle 24 ore, come in tutti questi 10 anni, visto che così abbiamo impostato oggi la puntata, commenta la borsa oggi nella persona di Livia Zancanelli. Buonasera Livia. Buonasera. Geox. Allora, Geox ha continuato a consolidare i guadagni nella seduta di oggi, appunto segnando in chiusura un rialzo del 3,3%. Allora, le azioni hanno guadagnato oltre il 14% dalla chiusura del 17 dicembre, giorno in cui il titolo aveva toccato i minimi dei primi di febbraio del 2009, poi le azioni avevano subito una battuta d'arresto nell'ultima seduta prima di Natale. E recentemente allora le azioni Geox hanno beneficiato del giudizio di Bank of America Merrill Lynch, che aveva rimosso la scorsa settimana il titolo dalla lista delle azioni da vendere. Altri titoli, vediamo, ripeto, i cali sono veramente leggeri, però su Finmeccanica meno 0,3%. Sì, allora le azioni hanno risentito delle indiscrezioni riportate ieri dal Sole 24 Ore, secondo cui è in fase di stallo l'accordo tra la controllata di Finmeccanica Alenia e gli Emirati Arabi Uniti per un contratto dal valore di oltre 1 miliardo di euro. Si tratta di una commessa relativa alla fornitura da parte di Finmeccanica di 48 aerei addestratori M346 e l'accordo era stato annunciato il 25 febbraio 2009, ma al momento la firma non è ancora arrivata, quindi ci si aspetti arrivi nel 2010. Beh, il timore è che con tutti i soldi che gli Emirati hanno dovuto tirare fuori per salvare Dubai, più di 20 miliardi, forse cerchino un po' di lesinare su alcuni contratti. Andiamo avanti comunque con i titoli. Oggi, visto che siamo in una puntata un po' così, più di storia che di cronaca pura, possiamo dire che insomma, le borse stanno archiviando la quarta seduta consecutiva di rialzo. Sì, infatti, allora le borse hanno archiviato la quarta seduta consecutiva di rialzi, consolidando appunto un rally che è partito nelle tre sedute prima di Natale. E per quanto riguarda Milano, nel giro di queste quattro sedute appunto il FTSE MIB e il FTSE All Share hanno guadagnato oltre il 3,5%, quindi diciamo che l'anno si potrebbe avviare verso un finale di guadagni. Torniamo invece sui titoli. C'è un Tenaris che praticamente oggi è arrivata sui massimi dell'anno, più 1,8%, ha toccato quota 15 euro per azione. Sì, allora Tenaris non superava quota 15 euro dalla chiusura della seduta del 24 settembre 2008 e ha quindi rinnovato i massimi dell'anno. Allora le azioni hanno beneficiato del rialzo del petrolio, che oggi è salito al livello più alto da 4 settimane, quotando intorno a 78,5 dollari al barile. Le azioni Tenaris hanno quindi beneficiato anche della buona intonazione dei comparti energie e materie prime, che hanno chiuso la seduta in Europa in rialzo rispettivamente dello 0,7 e dell'1,5% circa, e anche gli altri titoli del comparto comunque hanno chiuso in territorio positivo. Ancora sui titoli, vediamo andamento abbastanza buono di tutti gli assicurativi oggi in Europa. Unipol da noi guadagna l'1,90%. Sì, il comparto assicurativo in Europa oggi ha chiuso in rialzo dello 0,8% circa, e anche a Milano, quindi hanno chiuso positivamente Fonsai e Unipol e Generali. Per quanto riguarda Unipol, il gruppo lo scorso 23 dicembre ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la Popolare dell'Emilia Romagna e la Popolare di Sondrio per l'acquisizione della maggioranza del gruppo assicurativo Arca, che permetterà di operazione che permetterà di sviluppare una partnership strategica nell'attività di banca assicurazione nei comparti vita e danni. Ancora andiamo avanti sui titoli. C'è un debutto, visto che stiamo parlando anche del bilancio dell'anno. TBS ha fatto un debutto col botto, come sta andando? Sì, allora TBS oggi ha avuto un andamento contrastato, nel senso che ha iniziato la seduta in deciso rialzo per poi passare sotto la parità e chiudere a più 0,6%. In ogni caso le azioni hanno guadagnato il 21,12% dalla quotazione sulla Emitalia che è avvenuta lo scorso 23 dicembre a 2,50 euro. Che succede a Seat? Perché ormai il titolo vale 0,1, no? Sì, il titolo oggi ha chiuso in flessione dell'1,7% circa, e appunto nella seduta prima della pausa natalizia la società ha annunciato di aver tagliato le stime per il 2010 e il 2011, cosa peraltro bene o male attesa dagli operatori e degli analisti, ed avere allo studio l'emissione di un bond. La società quindi nel dettaglio ha comunicato che, dato il peggioramento delle condizioni macroeconomiche, gli obiettivi e le aspettative dei risultati 2010-2011 sono attesi a essere inferiori rispetto a quanto ipotizzato nel piano industriale. Ancora, complessivamente i bancari oggi, ci chiedono gli ascoltatori, mi sembra di poter dire che la seduta è stata tutto sommato più che positiva per i bancari. Sì, i bancari, è già stata una giornata positiva per i bancari, come lo era stata anche appunto l'ultima seduta prima della pausa natalizia. In Europa il comparto bancario ha guadagnato lo 0,7% circa, quindi a Milano sul paniere principale la migliore è stata Intesa San Paolo, che ha chiuso in rialzo dell'1,68%, seguita poi nel comparto dalla Popolare di Milano più 1,2%, da Mediobanca più 1,08% e Unicredit ha chiuso più 0,97%. E quindi anche per il mondo bancario si conferma un mini rally natalizio. Attenzione a questi mini rally, perché insomma è importante vedere come si muovono le borse più nel medio termine. E a questo proposito vedo molti messaggi al 349-238-6666 che ci chiedono di ricordare il bilancio di 10 anni di borse. Questo faremo dopo aver ringraziato Livia Zancanera e augurato buon anno a tutti i colleghi. Oddio, c'è anche la puntata di domani, insomma, a Livia, e poi lo faremo anche con tutti i colleghi di Radio Coro Il Sole 24 Ore. Grazie. Siamo d'accordo che nel calcolare quanto avrebbe guadagnato una persona che avesse investito diciamo nel 2000, in 10 anni, nel dicembre 1999 fino adesso, bisogna includere anche i dividendi. Noi davamo solo le quotazioni dei titoli e quindi del listino complessivo. E allora le ricordiamo di nuovo, il Nasdaq in 10 anni, il listino dei titoli ad alta tecnologia americani, ha perso il 42%, il Dow Jones, la borsa complessiva, l'indice dei titoli industriali di Wall Street, il 2%. In questo decennio che si chiude, Milano ha perso il 18%, Londra il 14%. Complessivamente i 50 titoli più importanti di tutta l'Europa, di tutta l'area euro, quelli che sono raggruppati nell'indice Eurostox 50, hanno perso il 38% dal 2000. Ha guadagnato, e non poco, l'euro sul dollaro, anche se a quota 1,43 ha guadagnato quasi il 40%, valeva infatti 1, il rapporto era 1-1 a fine 99 e adesso siamo appunto a 1,42. Ma soprattutto, indovinate un po', avrebbe guadagnato molto chi si fosse comprato taniche di petrolio, barili o perlomeno strumenti per investire. Più 200%, costava $24 il barile 10 anni fa, adesso ne costa 74. E poi, e anche questa è notizia di questi giorni, l'oro più 286%, costava 10 anni fa $280 l'oncia, adesso ne costa 1085. Alcuni di voi scrivono anche al 349-238-6666, ma insomma anche gli industriali si sono finanziarizzati in questo decennio. direi piccoli e medi no, in alcuni casi a livello europeo e anche a livello italiano alcuni grandi gruppi industriali hanno preferito passare su una parte più finanziaria dell'economia che su un'attività più manifatturiera. E allora è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Abbiamo provato a raccontare 10 anni, spero che la cosa sia piaciuta, probabilmente saranno state molte le imprecisioni e anche le dimenticanze. Domani torniamo a parlare di altri temi, un decennio in cui l'inglesismo, le frasi fatte, i luoghi comuni si sono impadroniti del lavoro, anzi dei luoghi di lavoro, e poi parleremo di questa America Corporate, insomma, che continua a distribuire miliardi. Mi dispiace, è un'ossessione, ma Goldman Sachs ha annunciato decine di miliardi di bonus ai propri dipendenti, pur vincolandoli a 5 anni prima della riscossione. Per ora è tutto, un augurio di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.